della Lega e di tutti gli altri partiti. Visto che il finanziamento pubblico oramai non esiste più, che cosa aspettiamo a fare una legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sulla vita interna dei partiti, che obblighi tra l'altro i partiti stessi a pubblicare i loro bilanci e gli elenchi dei loro finanziatori? Caro Simone, questa cosa di come usare i soldi, o meglio sperperare i soldi, dimostra che in Italia progettualità è una parola sconosciuta, project management è una pratica che sembra qualcosa derivata da Harry Potter. Spenderemo soldi in mille rivoli di stupidaggini, qualcuna pseudo utile, qualcuna assolutamente inutile, e finiremo col non aver prodotto nessun volano virtuoso che poi possa pagare l'indebitamento. Risultato, verremo commissariati e io non vedo l'ora. Addirittura, beh, c'è un partito non inteso come un partito politico, c'è un gruppo di persone che ritiene che la soluzione migliore per l'Italia sia la troica. Fate arrivare la troica, così impariamo come gestire i nostri soldi, che non lo sappiamo fare. Però, devo essere franco, io coltivo ancora qualche speranza, anche perché, appunto, questa volta i soldi del Recovery Fund non arrivano subito, dati immediatamente alla sola presentazione del progetto. Ci vuole un piano di attuazione, i soldi ti vengono dati volta per volta, quindi bisogna fare le cose fatte bene, e speriamo che sia davvero così. Sull'altro tema, la questione che parte dalla Lega ma in realtà ci parla di tutti quanti, ci parla di tutti i partiti, guardi, lei mi trova perfettamente d'accordo, perché noi non abbiamo mai dato attuazione a quell'articolo della Costituzione secondo il quale poi ci deve essere di fatto una legge che regola la vita dei partiti. È un problema, la cosa è stata sottolineata e tornata ad emergere in relazione a una serie di ragionamenti sul Movimento 5 Stelle, sul non statuto, che poi in realtà è uno statuto, su questa organizzazione tramite Rousseau, e però poi non se ne è mai fatto nulla. La mia impressione è che tutto sommato non sia interesse di nessuno mettere mano a questa disciplina, oltre ovviamente ad essere un argomento estremamente divisivo. Vorrebbe dire, lo dico semplicemente, regole chiare per tutti i partiti, la democrazia interna dei partiti deve funzionare in questo modo, la rendicontazione delle spese deve funzionare in questo modo, i bilanci devono essere redatti in questo modo e devono avere una certa certificazione, delle regole un po' più stringenti. Però figuriamoci, la realtà è che, lo dicono in pochi, non interessa a nessuno questa cosa, probabilmente sia a livello popolare, e poi figuriamoci a livello di partiti, non ne parliamo nemmeno, non è per fare del, spero non lo prendiate come populismo d'accatto, però è così alla fine, non interessa a nessuno. È la seconda parte di 24 Mattino, è mercoledì 16 settembre, sono le 7:23 minuti ed è la parte dedicata alla rassegna stampa, con i giornali che si dividono in più argomenti, però due sono quelli principali. Il primo è la morte di Don Malgesini, che troviamo in apertura su Avvenire. Una vita donata è il titolo. E quindi anche qua con un chiaro indirizzo, e dall'altra, altro chiaro indirizzo ci arriva dal giornale Dalla Verità, per come la vedono. Non l'hanno espulso, ha ucciso un prete. Tragedia dell'immigrazione per il giornale. Sacerdote ucciso da immigrato, ma danno la colpa agli italiani. È il titolo de La Verità. Il Corriere della Sera ci racconta, e ci arriveremo, delle frodi sulle mascherine, l'inchiesta dei PM, stato truffato sulle forniture. Nel frattempo nel mondo, ci riferisce il Corriere, i contagi arrivano a 30 milioni. Scuola in salita, c'è lo sciopero, ci dice il Messaggero, il 24 e il 25. Il Quotidiano Nazionale apre con un'intervista al Ministro della Famiglia, Bonetti, la quale propone tamponi più veloci per i bambini, per evitare chiusure prolungate poi delle scuole. La Repubblica sceglie la politica, regionali, patto Conte PD per blindare il governo. La Stampa ci dice tasse giù con i soldi del Recovery Fund, tagli fiscali legati a riforme su ambiente, innovazione tecnologica e incentivi ai pagamenti elettronici. Si attende oggi tra l'altro il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Il manifesto sceglie l'accordo del quale vi dicevamo poco fa, quello... cosiddetto accordo di Abramo, quello che normalizza le relazioni tra Israele, Emirati e Bahrain, creando un inedito fronte comune anti-Iran. E il titolo è Bye Bye Palestina. Diteci dove sono i soldi della Lega, chiede Libero, chi accusa Salvini ora li trovi. Il Fatto Quotidiano ancora sul referendum. Come si chiamava quel libro? Si chiede il Quotidiano. E le foto sono dei titoli modificati del famoso libro di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, La Casta, con titoli modificati: la pasta, la tasca, la carta, la cosca, la casba, la cassa, la rasta, la cesta, la costa, la vasta. Non è uno scioglilingua, è la vignetta che c'è sul Fatto Quotidiano. E sono le 24 ore, Italia-Germania, due presidenti in campo, e il titolo è dedicato dunque al vertice che ci sarà domani a Milano tra Mattarella e Steinmeier. Iniziamo direi a questo punto proprio da quello che è successo a Como, dalla morte di Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi che da anni aiutava i senza tetto della città, compreso l'uomo che gli ha tolto la vita a coltellate. E come vi dicevo, qua troviamo quelli che possiamo definire due fronti, il fronte che ci racconta Avvenire, che troviamo e che echeggia nelle parole del presidente della Caritas locale, ossia l'idea che questo omicidio sia anche frutto di un clima di odio e di violenza che si respira nel paese. Il sottotesto è quello generato dalla Lega e dalla destra, no? È ovvio, almeno appunto da quello che intuiamo e da come poi reagiscono anche i giornali di centrodestra. Il pezzo principale lo firma Nello Scavo, da Como, che racconta la disperazione innanzitutto proprio di una di queste persone che venivano aiutate da Don Malgesini. La folla ammutolisce quando il ragazzo, uno dei tanti arrivati sulla strada dove la città diventa collina e le lingue si moltiplicano, comprende perché sia arrivata la polizia. Non è possibile, grida per tre volte. Devono abbracciarlo in tre con forza per consolarlo mentre si contorce e nel suo accento di una terra lontana urla: «Signore, dove sei?» Nessuno ha una risposta. Non adesso che la bara viene portata via, inseguita dai poveri e dai volontari, gli uni e gli altri, italiani e stranieri, perché Don Roberto aveva fatto della carità un'alleanza tra esseri umani di qualunque storia, gli ultimi della fila e i primi della classe. Ci sono i racconti di varie persone aiutate appunto da Don Malgesini, esseri umani da accudire e proteggere da chi? Con i modi forbiti di una politica rozza, da anni prova a scansarli. Prima hanno tolto le panchine per allontanare dalla vista della città chic la vista degli straccioni. Poi hanno tagliato gli alberi che gli davano riparo. Non bastasse, hanno chiuso le fontanelle e adesso, anziché un dormitorio in più, avrebbero voluto regalare alte inferriate per tenere lontani gli indesiderati dai portici che alla notte fanno da tetto per chi un tetto non ce l'ha, racconta Nello Scavo. E se volete una posizione diversa da quella che prende il Quotidiano Avvenire, da quella che prende per esempio il direttore della Caritas, la potete trovare sul Giornale. Il pezzo lo firma Alessandro Sallusti, o meglio l'editoriale di prima pagina lo firma il direttore Alessandro Sallusti, quel sacerdote vittima di chi nega verità e regole. La prima notizia ufficiale parlava di un prete ucciso a Como da un pazzo. Con il passare delle ore, a fatica, il pazzo è diventato un pazzo senza tetto. C'è voluto un po' di tempo, scrive Sallusti, perché sui siti e nei TG di Stato, nelle pieghe dei servizi, si ammettesse che ciò che invece era noto dal primo minuto, cioè che il pazzo senza tetto era un immigrato un immigrato irregolare che aveva subito numerose ingiunzioni di espulsione dall'Italia, ovviamente tutte ignorate, e della sua pazzia non si trova traccia medica. Insomma, dice Sallusti, corroborando la sua tesi con un servizio del quale vi parlerò adesso e che troveremo all'interno, dice quando si mettono l'ideologia e la demagogia davanti al buonsenso è ovvio che può finire male. Quell'immigrato che è stato anche nel cuore di Don Roberto non doveva né poteva stare qui. Chi ha sostenuto e sostiene il contrario guarda in faccia la realtà e si prenda le sue responsabilità. Vi dicevo, editoriale Sallusti corroborato da quello che si legge all'interno nel pezzo di Fausto Biloslavo, e qua, a prescindere da come la si pensi, la farraginosità e i problemi del sistema di espulsione dei migranti irregolari in Italia è agli atti, e lo racconta bene Fausto Biloslavo dicendo che i tunisini sono la prima nazionalità degli sbarchi, 8.200 dall'inizio dell'anno fino a ieri, il 41% del totale degli arrivi illegali via mare, ma molti ce ne sono in Italia irregolari, come la persona che ha tolto la vita a Don Roberto, che appunto si trovano qua da molti anni, in questo caso addirittura da 30. Nel 70% dei casi, visto che con la Tunisia abbiamo un accordo in realtà, è necessario ricorrere alla procedura coatta, predisponendo voli charter con le adeguate misure di sicurezza. In pratica ci vogliono 2 agenti di polizia ogni irregolare. È capitato che per espellere 29 tunisini siano serviti 74 accompagnatori, per un totale di circa 115.000 euro. Come capite, è chiaro che se il numero è molto elevato la cosa diventa un problema. Comunque, discussione aperta, come si diceva, da una parte che ritiene che questo, come fa il giornale, come fa ancora più duramente La Verità, ritiene che questo omicidio sia frutto del, aperte virgolette, buonismo, chiuse virgolette, dall'altra parte invece chi ritiene sia frutto del clima di odio messo in campo da alcune forze politiche. A proposito di immigrazione, e visto che siamo su Como, prima di andare alla pausa vi voglio portare a pagina 7 del Quotidiano Nazionale, dove apprendiamo, dal quale apprendiamo che il Canton Ticino mette alla porta gli italiani. Ecco, così è un po' brutale, però ci vogliono dare una stretta sull'immigrazione. Votiamo per ridurre i permessi di soggiorno. In Italia, racconta Roberto Canali proprio da Como, il 20 e il 21 settembre si voterà il referendum per ridurre il numero dei parlamentari, in Svizzera il 27 per chiudere il rubinetto ai migranti, sicuramente economici, che da quelle parti sono italiani, tedeschi e francesi. In un paese dove il tasso di disoccupazione l'anno scorso è sceso al 2,3%, sembra una barzelletta, invece gli immigrati che rubano il lavoro fanno paura anche qui, tanto da diventare il bersaglio preferito della destra nazionalista dell'UDC, che dietro la richiesta di immigrazione moderata vorrebbe porre fine agli accordi di libera circolazione delle persone con l'Unione Europea. E il punto è che sarebbe un disastro anche per la Svizzera, che è legata a filo doppio al mercato unico, nel quale finiscono il 50% delle esportazioni e dal quale arrivano il 60% delle importazioni. Non è un caso, ci dice Canali, che Parlamento e Governo in questi giorni si siano espressi contro le tesi dei populisti, a maggior ragione in un momento delicato come quello segnato dalla ripresa post-Covid. Vedremo come andrà a finire, però dopo il nostro referendum dovremo tenere gli occhi aperti anche sul referendum svizzero del 27 settembre. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Ciao Simone, buongiorno. Io i soldi li utilizzerei nel settore dei rifiuti, però abbiamo grossi problemi in Italia da Aosta a Trapani perché mancano impianti che gestiscano i rifiuti, quindi utilizzerei una parte di questi per essere autonomo, gestire i rifiuti e dove è possibile produrre energia elettrica dagli stessi. Buongiorno, io i soldi del Recovery Fund li spenderei per costruire la filiera della mobilità a idrogeno, che secondo me è l'unica alternativa. Io penso che ci sia un tipo di progetto che sicuramente potrà essere finanziato, e cioè l'efficientamento energetico e sismico di tutte le scuole, di tutti gli edifici pubblici, inclusi ospedali e edilizia sociale. Penso che questo sarebbe un grandissimo progetto. Le vostre proposte per il Recovery Fund al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, le vostre voci. Tutti serissimi, tutti serissimi. Nessuno che chieda di, che ne so, ci ristrutturerei casa, per esempio. Si scherza naturalmente, però se volete, a testimonianza di quello che ci diceva l'ascoltatore all'inizio, tra l'altro ne abbiamo parlato ieri alle 6.45, ci siamo occupati di mascherine, lo ricorderete, come bruciare le mascherine, come risolvere il problema. Ebbene, apprendiamo con Jacopo Giliberto dal Sole 24 Ore di oggi a pagina 12 che, secondo A2A, serve una rete di inceneritori per smaltire la marea di mascherine. Come dicevamo ieri, ce ne sono troppe. Per eliminare in modo sicuro la marea di mascherine anti-Covid servirebbe la capacità di incenerimento di un termovalorizzatore di taglia media, della capacità di trattare qualche centinaio di migliaia di tonnellate l'anno. Le parole sono appunto di Renato Mazzoncini, bresciano, ingegnere, amministratore delegato della 2A. Servirebbe cioè quella rete di impianti che non hanno regioni ad alta produzione di spazzatura, ad altissima produzione di discariche, a stratosferica produzione di abusi ambientali. E questo è il grande tema, uno dei grandi temi, le mascherine e ovviamente i guanti, anche se la questione è un po' più è un po' meno rilevante adesso, quella dei guanti. Il Recovery Fund e la politica, qua che ci porta Lina Palmerini nel suo Politica 2.0 a pagina 8, sempre del Sole 24 Ore, segnalandoci come ieri Conte è come se si fosse creato uno scudo da queste elezioni regionali e da questo referendum, dicendo esattamente che il governo andrà giudicato non tanto su questo voto, sulla cui valenza nazionale tra l'altro la stessa opposizione non ha spinto un granché, ma appunto sull'utilizzo del Recovery Fund. Se perderemo la sfida, avete il diritto di mandarci a casa. Può essere una frase scontata quella che ha pronunciato ieri Conte a Norcia, in realtà, detta alla vigilia del voto, aveva qualcosa di non scontato, come dire che il target del governo non è tenere la Toscana o tagliare 345 onorevoli, ma decidere il destino dell'Italia, usando l'occasione storica della nuova Europa. È su quel piano, insomma, che il Premier si sentirà giudicato o delegittimato, non dal voto di lunedì da cui si tiene alla larga. Una sorta di autodifesa preventiva per mettersi al riparo dall'esito dei due test regionali e referendum che in questi giorni stanno tenendo in sospeso la coalizione, fatta con grande abilità, sollecitando l'istinto di autoconservazione della sua maggioranza e ricordando come la sfida di gestire i 209 miliardi dei piani europei non può essere mandata a monte, persino se il PD dovesse perdere la roccaforte rossa o se dovessero vincere i no. C'è anche una questione, sottolinea Lina Palmerini, sul fronte della tenuta della legislatura, che è un orizzonte temporale importante del quale Conte ha tenuto conto, scusate la brutta espressione, che del quale, come si diceva, ha tenuto conto e che ha a che fare appunto con i tempi. Scorrendo il calendario si vede che i piani con l'Europa si chiuderanno ad aprile, i primi fondi dovrebbero arrivare a giugno, mentre i primi di agosto inizia il semestre bianco, periodo nel quale il capo dello Stato non può sciogliere le Camere. Bisogna arrivare a quella data per tenere in piedi la legislatura, oltre che Conte, e il recovery si inserisce nel timing delle convenienze politiche con efficace precisione. E anche questo è un punto sulla tenuta della legislatura. Del resto, per tenere in piedi il governo, pare, sostiene la Repubblica, e su questo apre, siamo a pagina 3, Conte e Zingaretti avrebbero sottoscritto un patto per blindare il governo anche se arrivasse la sconfitta, siglato nelle ultime ore da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, scrive Tommaso Ciriaco, dopo giorni di tentazioni, mediazioni, tentennamenti e di tormenti, soprattutto nel leader del PD. Un accordo che si può sintetizzare così: dopo le regionali il governo non cambia, non si tocca nulla, meglio evitare il rimpasto. Somma di debolezze, si dirà, presa d'atto di un quadro in bilico, ma soprattutto concordano il premier e il segretario Dem, dopo sofferto confronto, consapevolezza di un dato di realtà: il fallimento dell'uno corrisponde al rischio di fallimento dell'altro. Però, come sapete, come sempre in questi periodi circola qualsiasi cosa, qualsiasi retroscena, e dunque abbiamo anche Marcello Sorgi sulla stampa, pagina 9, che ci racconta che l'idea che sta circolando in queste ore è far entrare Matteo Renzi nel governo con un ministero, per, ammesso che Renzi accetti, in questa situazione, comunque l'elemento forte sarebbe quella di convincere Renzi a entrare nel governo per responsabilizzarlo e sottrarlo alle continue tentazioni di far saltare il banco. Dietro di lui toccherebbe a Zingaretti, visto che il modesto risultato atteso dal PD non ferma le chiacchiere sul congresso, ma con una differenza: sarebbe l'attuale maggioranza interna a guidare i giochi e Zingaretti verrebbe sostituito da Andrea Orlando. A proposito di tensioni tra le due ali della maggioranza, Movimento 5 Stelle e PD, c'è da segnalare, lo riporta bene il Messaggero a pagina 32, sono da segnalare le parole crude di Zingaretti ieri a Porta su Virginia Raggi, perché c'è appunto questa ipotesi della ricandidatura dell'attuale sindaca di Roma. Ebbene, le parole di Zingaretti sono state abbastanza nette: una catastrofe. Cioè Virginia Raggi dice Zingaretti è stata una catastrofe, niente accordi sottobanco tra il PD e il Movimento 5 Stelle. C'è un problema in tutto questo che agli italiani di tutto questo balletto non gliene frega niente. Ebbene, lo dimostra Alessandra Ghisleri proprio sulla stampa, tra l'altro, con il suo sondaggio, nel quale ci fa sapere che in Italia c'è poco interesse per il voto ed è la crisi economica a fare paura, come potevamo aspettarci. Quali sono le priorità degli italiani? 20% lavoro e disoccupazione, 19,5%, quindi più o meno uguale, rilancio dell'economia nazionale, 5% lotta alle disuguaglianze, 17% pressione fiscale, tasse e fisco, il grande, grande tema. Ammodernamento per il 16%, ammodernamento e ripensamento del sistema sanitario, e l'11,5% la scuola e l'istruzione. Il traffico, e poi arriviamo proprio alla scuola. Mattino. Ma guarda, dalla Sicilia, due o tre tunnel sottomarini con i paesi confinanti dell'Africa, in modo da, con pista ciclabile ovviamente, in modo da permettere una più facile migrazione. I tunnel sottomarini, ormai ci siamo, connettiamo tutto, connettiamo Calabria, Sicilia e poi giù. La scuola, vi risparmio tutte le pagine sui banchi che non ci sono, perché in molte scuole non ci sono. Se prendiamo solamente il Messaggero, ci racconta quello che succede nel Lazio, dove appunto non sono, in molti luoghi non sono ancora arrivati. Vi risparmio tutti i discorsi ancora una volta sul numero di insegnanti: quanti ne mancano, quanti ne devono arrivare, quanti supplenti, perché sono grandi numeri che alla fine danno poco il senso di quello che sta succedendo in ogni singola scuola e di quello che succederà a partire dal 24, no? Quando riapriranno anche in tutte le altre regioni. Detto ciò, dal Messaggero va segnalato che il Messaggero fa l'apertura su il 24, che sarà il giorno dello sciopero proclamato da Cobas e Unicobas. Quindi si rientra dopo le elezioni e vabbè, e c'è di nuovo uno sciopero, non si sa come, non si sa quanto, perché poi all'interno delle scuole, come ben sapete, il personale, così come in altri luoghi, come è normale che sia, il personale può scioperare senza avvisare prima, quindi non si sa se, come e quando si rientrerà in classe nella giornata del 24. E poi c'è tutto il tema di come procedere nel caso ci sia un bambino positivo o un sospetto su un bambino, su un ragazzino positivo. Ebbene, si distingue ancora una volta su questo la ministra delle pari opportunità della famiglia, Elena Bonetti, che ricorderete era quella che poi si spinse anche un po' più avanti nel periodo del lockdown, dicendo adesso dobbiamo iniziare a pensare a questi ragazzini. E propone questo: tamponi immediati agli alunni con sintomi, così risolviamo il problema subito. Una corsia preferenziale per non lasciare genitori e docenti nell'incertezza in un caso sospetto di Covid. Dice la Bonetti, che inquadra tutto nel contesto più generale, dice significa sostenere la famiglia, significa riconoscere e restituire alla scuola la centralità di luogo principale attraverso il quale favoriamo il protagonismo dei bambini e dei giovani e il loro punto di vista, che va messo al centro di tutte le scelte che si fanno. È questo cambio di passo che ci permette di aiutare le famiglie. Con quali strumenti? Ad esempio, nel caso i bambini debbano rimanere a casa per evitare che si crei o focolai non controllabili, ho promosso la necessità che sia riconosciuto il diritto ad avere a casa un genitore che si occupi di loro, il diritto allo smart working, e con lei stessa, con la ministra Bonetti, ne abbiamo parlato in apertura, lo ricorderete, di questa stagione di 24 mattino. E appunto la proposta che arriva è un tampone immediato, corsia preferenziale sullo screening per bambini e ragazzi. Deve esserci una corsia preferenziale, punti di riferimento integrati con il sistema dei pediatri. Per fare questo serve governare bene. Penso qui alla candidatura, qua c'è la candidatura toscana, quindi non ve la cito, non parlo di. Non possiamo parlare di regionali, c'è il rischio di violazione della par condicio. E dice: usiamo le risorse che l'Europa mette a disposizione con il MES e investiamo sui nostri figli. Comunque la proposta è là sul tavolo. Nel frattempo però c'è quello che succede all'interno delle scuole. Quello che succede all'interno delle scuole, sì, i banchi, sì, i docenti, e poi ci sono i soggetti più deboli, che non sono i famosi soggetti fragili, gli insegnanti, quelli che devono rimanere a casa, ma in questo caso, ma i bambini e i ragazzini disabili che si trovano senza insegnanti di sostegno. Giova, per dare un esempio, ancora una volta una storia, siamo a pagina 8 del quotidiano La Repubblica, con Viola Giannoli che intervista Francesco Palese, un giornalista, papà di un ragazzino disabile. Mio figlio era pronto a tornare in classe con tutti i suoi compagni, e invece per Gianluigi il primo giorno di scuola si è trasformato nell'ennesimo giorno di umiliazione. Un bambino autistico di 9 anni è tornato a casa dopo appena mezz'ora all'istituto Pio La Torre di Torrevecchio, un quartiere popolare nella zona nord-est di Roma. Ancora non ci sono, come quasi ovunque, insegnanti di sostegno. Solo alla primaria, in questo edificio a 2 piani di mattoncini arancioni, ne mancano 9 su 16. Così la scuola è iniziata, ma non per tutti, soprattutto per tantomeno per i soggetti più deboli. Vi ho detto che vi avrei portato, e lo facciamo su questa paginata del Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini, che non entra nei dettagli di chi sono gli indagati, di come dei dettagli di questa inchiesta, però ci fa sapere che c'è una maxi inchiesta sulle mascherine per frodi e costi gonfiati. 4 i fascicoli aperti dal gruppo di magistrati guidati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, 10 gli indagati per frode in commercio. Un lavoro capillare svolto dai pubblici ministeri. Oltre al blocco di 4.800.000 mascherine nei magazzini, sono rimasti 65.800 dispositivi per la terapia intensiva, oltre 26 milioni di guanti monouso, 216.000 tute, più di 47.000 occhiali e persino 86.000 confezioni di alcol, prodotti non conformi alle norme, la maggior parte con una certificazione fasulla, frutto di tutto quello che è successo probabilmente là a ridosso del lockdown. lockdown. Ultima cosa sulla quale vi voglio portare è su tutt'altro argomento, però è uno spunto interessante che ci regala Il Foglio con Annalena Benini, la quale ci riporta su un'invettiva andata a ruba, un libro andato a ruba ed esaurito online in pochi giorni, ora in attesa di ripubblicazione con un editore più forte, che si intitola Io gli uomini li odio, ed è l'atto d'accusa femminile, militante e personale di una giovane donna, Pauline Harmange, aspirante scrittrice 25enne che non era preparata a tanta polemica e a tanto successo, ma lo desiderava molto, la quale appunto picchia giù duro, e la questione femminile la mette in questo modo. Se sei un uomo puoi darmi i tuoi soldi, li prendo io, non preoccuparti, puoi anche stare zitto e imparare alcune cose che forse le donne della tua vita non hanno l'energia di spiegarti. Stai zitto, leggi, abbi l'umiltà di capire di essere parte del problema e che ho ragione ad odiarti, a odiare il mondo maschile in generale e a odiare certi uomini in particolare. Voglio dire, nel mio libro dice Harmange che le nostre ragioni per diffidare, anche per odiare gli uomini, sono numerose, legittime e soprattutto non ci bloccano. Vogliono farci credere che odiare gli uomini può portare solo al nostro isolamento e al nostro inaridimento nella società. Io voglio mostrare invece tutto ciò che può fiorire quando lasci gli uomini da parte. Pauline Harmange, che è fidanzata, sta felicemente con un uomo che ama, e però dice la misandria, l'uomo, l'odio nei confronti degli uomini è in questo momento la nostra unica difesa. GR24, ci ritroviamo tra poco con l'appuntamento con Paolo Miele e poi alle 8.35 il ministro degli esteri Luigi Di Maio. A tra poco.